Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi tratta di questo testo, I pionieri di Pozzonovo, storia di un processo 1953-1956, l'autore Andrea Colasio e c'è la prefazione di Marco Mondini. È una vicenda che riguarda per l'appunto il processo ai pionieri di Pozzonovo, che è un piccolo paese della provincia padovana. Proprio in quegli anni, tra il 54 e il 56, sei braccianti iscritti al PCI vennero accusati di reati orribili come abusi sessuali ai danni di una trentina di bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni, nonché l'insegnamento di precetti amorali contro la Chiesa e l'ordine pubblico. Ne abbiamo parlato con l'autore Andrea Colasio già la volta scorsa. Oggi riprendiamo la chiacchierata per inquadrare il perché di questo fatto di un piccolo paese è diventato uno scandalo di grande portata nazionale in quello che viene chiamato, nel caldo e fervido clima del politico post bellico, il grande ritorno ecclesiastico e la corsa alla costituzione di uno Stato democratico dopo l'esperienza fascista. Dopo lo stacchetto musicale, la seconda parte delle interviste di Moreno Moretti ad Andrea Colasio. Siamo al telefono con Andrea Colasio, che è autore del libro di recente pubblicazione I pionieri di Pozzonovo, storia di un processo 1953-1956. Nel libro scrivi che ci fu una strategia nazionale di delegittimazione dell'API che si intrecciò con un contesto locale, la chiami una tempesta perfetta. Ma torniamo al processo per capire intanto come poi tutti questi imputati furono assolti, tutta questa bolla si sgonfiò e le ripercussioni a livello nazionale e anche quella all'interno del Partito Comunista. È una storia complessa, non è un caso che per tantissimi anni non se ne occupò mai nessuno. Me ne occupai io per la prima volta nel lontano 1980-81 con un articolo su Paese Sera. Era come una vicenda rimota ed è questo il grave, una sorta di damnatio memoriae. E non l'unica, devo dire, perché in questi periodi la rimozione di tante vicende importanti, significative, ma anche dell'API stesso, ci fu una rimozione anche di questa associazione, devo dire. L'API viene, l'epilogo lo possiamo dire subito, pochi anni dopo il processo, l'API viene sciolta. Esatto. Viene sciolta d'ufficio da Togliatti, ci fu una riunione drammatica della direzione del partito proprio a Reggio Emilia e lì si prese una decisione drastica. Come mai? Si stava andando verso il decimo congresso che avrebbe modificato il rapporto tra militanza nel PCI e dimensione religiosa. Fino ad allora si era convinti che la coscienza, la fede religiosa potesse essere un ostacolo rispetto ad una cultura di sinistra, tra virgolette, rivoluzionaria. Ad un certo punto con il decimo congresso cambia la strategia e si assume che la coscienza religiosa possa essere un fattore di dialogo e di crescita, diciamo, di un modello culturale alternativo. Insomma, il decimo congresso è un punto di snodo e sull'altare di questa metamorfosi radicale Togliatti, anche in considerazione del fatto che l'API era stata oggetto di un conflitto feroce, nel libro ripercorro centinaia e centinaia di pagine dei giornali diocesani dell'Italia, dal nord al sud del paese, dove l'API viene connotata e caratterizzata come un momento non solo per la scristianizzazione, ma proprio per un'educazione incentrata sulla promiscuità sessuale. L'API viene chiamata casa di corruzione morale, l'idea che gli educatori dell'API ricorressero alla promiscuità sessuale come fattore per staccarli dall'azione cattolica era tipica e ricorrente. Insomma, l'API era, diciamolo sinteticamente, un gigantesco problema. Si decise decise di scioglierla. Non fu uno scioglimento facile, in Emilia Romagna, in Toscana era molto radicato e ovviamente ci furono resistenze enormi, però l'API di fatto venne rimosso non solo dalla storia politica ma anche dalla storiografia. Ma tornando al processo, il processo fu drammatico, decine e decine di bambini vennero sentiti appunto dai giudici per verificare se quanto avevano scritto in queste letterine che avevano sottoscritto in parrocchia corrispondesse a vero. La quasi totalità dei bambini dichiarò che quelle letterine, quelle confessioni scritte, che tra l'altro erano molto vaghe, erano state scritte addirittura sotto dettatura, sotto pressione psicologica. In realtà solo due bambine, due gemelle e un ragazzino, Settimo Dal Buono, continuarono, anche se quasi alterne, a sostenere che le orge avvenivano realmente, anche se in realtà nel corso del processo dissero che in realtà colui che guidavano tutta la strategia era il poveraccio, era Casimiro Baretta, che era il segretario della sezione del partito locale di Pozzonovo, perché era morto. Tutte le accuse vennero condotte al povero Casimiro Baretta, che in realtà era morto. I giudici fecero anche un sopralluogo, che volevano confrontarsi di viso con la sezione del PC. E il paradosso è che in quegli stessi giorni le ragazzine che sostenevano l'accusa dichiararono che si erano sbagliate, che al cinema dove inizialmente sarebbero avvenute le orge non era vero, si erano sbagliate, le orge avvenivano esclusivamente nella sezione del PC. Nel libro c'è anche un bel apparato iconografico dove riproduco la povera, poverissima sezione che era un ex sede del fascio. Il PC di Pozzonovo era 4,59 m x 4,59 m, sì. E immaginare che 30 bambini avessero lì atti di congiunzione carnale mentre il povero Casimiro Baretta fischiava o suonava la radio era a dir poco sconcertante. E fu quello che venne scritto dalla corte nella prima sentenza, dove dopo un dibattito terribile, anche perché la grande stampa nazionale, diciamoci la verità, era colpevolista. Il Corriere della Sera, insomma, ci sono gli articoli di Max David che caratterizzava poveri imputati come dei mostri, dei veri subumani quanto iscritti al partito e quindi in grado di compiere le più grandi bassezze morali. La difesa faceva notare che alcuni dei bambini implicati appunto nelle orge erano, una era la figlia di uno degli imputati, due erano ragazzini, erano i nipoti della Rossati, un'altra era la sorella di uno degli imputati. Ecco, e la grande stampa e anche il PM si chiamava José Schivo, era il figlio di una natura terribile, figlio ovviamente di un ventennio dove le immagini del comunismo erano quelle del mostro, continuavano a ribadire, grande stampa, stampa cattolica, il PM, che era molto plausibile che, poiché bisognava difendere il partito, questi avrebbero sacrificato sull'altare figli e nipoti pur di difendere l'organizzazione. Sono gli orchi ferocissimi che fanno belli i principi, a noi bastano codiche, polenta e baccalà. Lo sai che nelle favole ci vogliono i cattivoli e non facciamo scherzi, tanto io resto qua. Perché è l'orco che fa paura, in ogni storia, ogni avventura c'è un orco e sai perché? No, no, no, no, non esiste favola senza di me. E gli orchi affamatissimi con gli stivali corrono nei boschi, nelle favole con grande agilità. Con il respiro puzzolo tutti i cinghiali stendono e da lontano annunciano i buchi giù in città. Perché è l'orco che fa paura, in ogni storia, ogni avventura c'è un orco e sai perché? No, no, no, no, non esiste favola senza di me. Perché l'orco che fa paura, in ogni storia, ogni avventura c'è un orco e sai perché? No, no, no, no, non esiste favola senza di me. No, no, no, no, non esiste favola senza di te. Però veniamo appunto alla conclusione del processo. Quanto durò intanto? Il processo inizia verso la fine del 54. Il primo processo, quello nel tribunale di Padova, finisce dopo un mese. appunto con la formula piena, con la soluzione per non aver commesso il fatto. E tra il primo processo e l'appello che avvenne a Venezia nel novembre dello stesso anno, ovviamente il processo diventa più che mai nazionale. Negli archivi di Stato abbiamo trovato moltissima documentazione, Scelba monitorava giorno per giorno il processo, lo faceva Scelba, lo fecero poi Tambroni, diciamo l'API era oggetto dell'attenzione non solo delle gerarchie cattoliche, ma del capo della polizia. E anche delle questure localmente. Questure e prefetture, il processo venne monitorato quotidianamente, in certo qual modo io sono convinto che lo stesso rinvio a giudizio fu sollecitato da Scelba. Ecco, cosa succede? Succede che ovviamente interviene il Vaticano, il fatto che venissero assolti i poveri sei braccianti implicava che tutta la grande campagna nazionale contro l'API, perché quello che veniva detto in quel processo, le accuse di Pozzonovo, altro non erano che la trasposizione nel contesto di Pozzonovo della grande campagna contro l'API che si era stabilita a Tavolino nel 1950, pochi mesi dopo che l'API era comparsa a Reggio Emilia. È una scelta strategica, che mette assieme il gruppo dirigente di Azione Cattolica e alcune articolazioni dello Stato, in primis Scelba, affiancato ovviamente dal presidente dei comitati civici che è Gedda. Pensati che la stessa storiografia cattolica dice la maggior drammaticità, la maggior intensità dello scontro tra i due mondi non sono le elezioni del 48, che già furono drammatiche, ma la storiografia cattolica più intelligente dice guardate, è proprio la guerra contro l'API che è folle, ossessiva, che costituisce l'apice di questa strategia che si inseriva appunto in questo tentativo che si chiama la crociata del grande ritorno. L'idea di fondo qual era? Che l'Italia era sì un paese democratico, ma in realtà doveva essere un paese confessionale, e l'idea di fondo in una parte, non tutte, delle gerarchie cattoliche e della classe politica democristiana, almeno in parte, era l'idea dello Stato cattolico. Insomma, si guardava il modello franchista come ideal tipo sostanzialmente, questa è la verità, e conseguentemente in quei pochi mesi tra il primo e il secondo grado il Vaticano si muove e sostanzialmente si capisce che c'è una sorta di accordo politico per cui non è drammatico, ma in appello poveri imputati vengono sia assolti, ma non perché il fatto non sussisteva, ma per insufficienza di prove. Per il mondo cattolico è una mezza vittoria. Se voi guardate le interviste che in tutti questi anni ho cercato anche di dare voce a chi la voce non l'ha mai avuta per tanti anni, i bambini. I protagonisti nel libro. Sì, c'è un QR code che permette di ascoltare il padre e anche i bambini, perché io credo esiste una verità giuridica, il fatto che vennero assolti ma per insufficienza di prove restava comunque una macchia, non veniva dimostrato che loro erano colpevoli, ma si dava per assunto implicito che i fatti fossero avvenuti, insomma era la piena delegittimazione dell'API, l'API era uno strumento al servizio, lo scrivevano reiteratamente, della corruzione, insomma c'è il libretto pubblicato nel 50 da Lorenzo Bedeschi, è emblematico, sacrano l'infanzia, ecco molti anni prima quelli che sono i capi di imputazione di Pozzonovo, ma anche di altri molti processi che ho ricostruito nel libro, diciamo i capi di imputazione vengono già anticipati dal libello di Bedeschi, Bedeschi è un personaggio strano, poi sarebbe diventato marxista, questo è un po' il paradosso, ma lasciamo perdere, e nel contempo dicevo, si è mosso il Vaticano e si decide sostanzialmente che quella vicenda deve chiudersi con un compromesso. La soluzione per insufficienza di prove restituisce, tra virgolette, dignità alle accuse della stampa diocesana e tutti quanti, nessuno vuole ricorrere in appello. Ovviamente la difesa è consapevole che il ricorso in Cassazione è pericoloso, ma in realtà l'accordo c'è già stato, a mio giudizio, tra direzione del PC e Vaticano, tanto è vero che simultaneamente tutti firmano degli atti con cui si rinuncia a ricorrere in Cassazione. Chi è che paga? L'API verrà sciolta, perché è evidente che da lì a poco, come dicevo prima, viene sciolta ed era forse un accordo che era già stato siglato qualche anno prima. E si chiude un'esperienza. fatta di luci e di ombre. Oggi tutti esaltano il mito di Rodari, nessuno conosce che Rodari aveva scritto il manuale del pioniere, nessuno ricorda che Rodari era il direttore del pioniere, che nel piccolo panorama dell'editoria dei per bambini rappresentò sicuramente un fattore di innovazione. Il libro ripercorre anche il conflitto tra Rodari e Nil Deiotti e sulla vicenda dei fumetti. No? Sì, loro sono Togliatti e Laiotti sono convinti che il fumetto sia degenerativo. Sì. Che è un tema che abbiamo già affrontato in altre occasioni, perché è molto interessante effettivamente. Sì, solo che lì questo forse aiuta a capire perché si addivenne poi allo scioglimento dell'anno. I used to be respected, people took me at my word. Then I became a lawyer representing Amber Heard. Objection hearsay. Oh my God, I don't have a case. Objection hearsay. Now I'm ashamed to show my face. Well, I'm a famous movie star. Yeah, life is always fine. I sit down at my penthouse drinking mega pints of wine. Objection hearsay. I don't know why we ever wed. Objection hearsay. Who the hell poops in someone's bed? I object to everything, I may have an infection. Cause I say I object, the judge says that was your own question. Objection hearsay. Court isn't supposed to be this hard. Objection hearsay. How did I ever pass the bar? Well, just one final question, sir, and this one has been prepped. What is your name? My name is Johnny Depp. Objection hearsay. How can you prove that that's your name? Objection hearsay. Looks like we win and you are lame. Objection hearsay. Objection hearsay. Oggi il tema del disagio giovanile è al centro di mille discussioni tra un decreto sicurezza e l'altro. Sono entrati nel lessico giornalistico termini come maranza, dal non troppo celato sapore razzista in riferimento alle seconde generazioni dell'immigrazione. Sembra allora proprio che la lezione di Gianni Rodari, Mario Lodi, Alberto Manzi e magari Bruno Ciari siano dimenticate, mentre oggi il ministro dell'istruzione Valditara chiede metal detector nelle scuole e tanto per cambiare inasprisce le pene. Ma la logica del sorvegliare punire non funziona, perché non fa che esasperare le tensioni già esistenti e il distacco tra un mondo giovanile e quello degli adulti. Oggi, come al tempo del movimento di educazione educativa, un'altra strada è possibile, come vi spiega ai nostri microfoni il pedagogista Daniele Novara, direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. La parola dunque alla redattrice di Iucali per questa intervista. In collegamento telefonico con noi il dottor Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Lo abbiamo invitato per aiutarci a riflettere su un tema che siamo partiti dalla frase perché per crescere un bambino serve un villaggio e quindi abbiamo riflettuto su quanto contano gli adulti di riferimento anche fuori dalla famiglia. E lei su questi temi ha anche scritto abbastanza parlando dell'educazione come di un processo sociale e relazionale. Ci può aiutare a partire da qui? Farei una constatazione molto semplice, banale. Ognuno di noi è l'educazione che ha ricevuto, nonostante i nutrizionisti insistono nel dire che siamo ciò che mangiamo. Io sostengo, da scienziato pedagogico, che in realtà siamo molto molto di più l'educazione ricevuta, perché anche il cibo dipende da come i nostri genitori hanno impostato la nostra, appunto, educazione alimentare. Basti pensare che fino agli anni 70 ai bambini veniva dato il famoso famigerato goccetto di vino all'età di 6-7 anni, per farli entrare in un'età più avanzata. Quindi oggi si tende a sottovalutare tutto il mondo dell'educazione, il mondo della crescita, pensando che le persone, i bambini e le bambine possano crescere senza un'organizzazione educativa adeguata e questo tipo di indifferenza pedagogica sta creando molti disastri anche alle generazioni di stranieri nati qua in Italia che entrano facilmente in uno stato confusionale non capendo bene quali sono le regole del gioco, ma in generale queste regole non sono chiare perché la disinformazione regna totale. Oggi come oggi i genitori non hanno un background informativo adeguato per riuscire a far crescere le nuove generazioni. Nel loro immaginario dominano le influencer che ovviamente non hanno il background scientifico per poter dare informazioni attendibili. E d'altra parte anche la politica sembra disinteressata, basti pensare che i soldi del PNRR sono stati sostanzialmente quasi tutti spesi nell'edilizia scolastica e ben poco nella formazione del fattore umano, nei progetti educativi a favore dei ragazzi, per poi improvvisamente lamentarsi che i ragazzi sono in difficoltà e girano con i coltelli, ma questo non è una causa, è una conseguenza della disattenzione generale e del mancato investimento sui progetti educativi. E quindi le chiedo, perché è così importante per un bimbo avere adulti di riferimento anche fuori dalla famiglia? Un eccesso di esclusività con i genitori, tipo i genitori che addirittura non mandano neanche i bambini alla scuola dell'infanzia o magari non usano l'asilo nido, crea in loro un deficit di adattamento sociale, quindi non è una questione strettamente affettiva, ma sono i processi di apprendimento che contano, quindi avere un ambiente dove possono fare esperienza, quindi una città con parchi gioco, con ludoteche, con biblioteche, con centri estivi gratuiti, è fondamentale. E poi ovviamente anche la famosa famiglia allargata. Io ho scritto tantissimo sulla figura della zia, che storicamente è sempre stata una figura importantissima. Cioè quello che conta è liberare i bambini e le bambine da rapporti troppo stretti, che a volte diventano morbosi, con i loro genitori dopo i 2 anni, ecco perché la vita è fuori dal nido materno, non dentro. E chiedo, nella pratica quotidiana, che differenza fa per un bambino crescere in un contesto dove ci sono insegnanti, educatori, adulti significativi, oltre la famiglia, e quindi quando questo famoso villaggio c'è? Beh, questo dipende da come una società investe anche nell'immaginario educativo. Oggi l'investimento è molto basso, quindi i genitori sono spesso da soli, magari con un figlio unico, e mi chiedono se possono comprare un cane. Ecco, domande abbastanza bizzarre, detto brutalmente. Questa solitudine poi diventa deleteria, ecco perché la mancanza di un'offerta relazionale per i nostri bambini e le bambine è un danno alla loro crescita, specialmente perché poi diminuisce anche l'elemento sociale con i loro coetanei, e quindi vivere per esempio il weekend non solo su un campo di calcio ma anche in una compagnia più ampia. Sono situazioni importanti che vengono purtroppo sottovalutate. Pensiamo anche al fenomeno dei ristoranti che rifiutano i bambini o che mettono dei limiti o che non danno ai genitori uno spazio di gioco dentro i loro locali. Ecco, tutte situazioni che indubbiamente non aiutano. Occorre che questo famoso villaggio non resti una retorica per fare l'intervista al pedagogista, ma qualcosa di estremamente concreto, appunto parchi gioco, iniziative mirate e spazi dove i bambini e le bambine possono sentirsi accolti, ecco, accoglienza è tutto. Oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I pregiudizi delle persone per bene e le autostrade. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I partiti che sono scatole vuote. È una bella costituzione. Dentro i vano sui vetro, in coda le poste in cima a monte, nei frastuoni le auto blu, in Parlamento in ogni momento. Ti è mai capitato di sentire pronunciare questa frase? I giovani d'oggi non valgono un cazzo. Dentro i vano sui vetro, in coda le poste in cima a monte, nei frastuoni in ogni momento. Ti è mai capitato di sentire pronunciare questa frase? I giovani d'oggi non valgono un cazzo. I giovani d'oggi valgono poco, intendi cosa ci hanno lasciato? Una lunga fila di seconde case e le spiagge private. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.